usando questo foglio sul colloquio di Vipassana. The next three pieces really are to do with what the Buddha called the five hindrances. Quindi i successivi tre punti sono, hanno a che vedere con ciò che Buddha chiamava i cinque ostacoli. Mm-hmm. Now, from now on, if questions arise from the talks, then put them on a piece of paper and I will answer them as quickly as I can afterwards. Adesso in poi, se vi sorgono delle domande riguardo al discorso di Dhamma, allora per favore scrivetelo su un foglietto di carta e le mettete qui e Bhante cercherà di rispondere al più presto. Mainly because we've covered most of the problems that arise in meditation anyway. Anche perché abbiamo già coperto la maggior parte delle, dei problemi che sorgono con la meditazione. Mm. The five hindrances was the way that the Buddha categorized the problems, the problems that come up in meditation. Quindi i cinque ostacoli sono un modo in cui il Buddha aveva messo in categorie i problemi che possono sorgere nella meditazione. And we can split them really into two types. In realtà li possiamo suddividere in due tipi. Those that excite the mind and those that dull the mind. Quelli che eccitano la mente e quelli che la intorpidiscono. Most of course are those which excite the mind. I più numerosi sono quelli che la eccitano. So of those that excite the mind, the most that draw our attention tend to be thoughts about things that we desire, that please us. Allora, quelli che agitano di più la mente, eccitano di più la mente, di solito sono quelli che sono i pensieri riguardo alle cose che ci piacciono, che ci soddisfano. Mm. So, when you in your meditation, you'll see what are the areas that obsess you around your lifestyle. Quindi durante la meditazione potete pensare a quali sono quelle zone, quelle aree, quegli ambiti che vi ossessionano riguardo al vostro stile di vita. Mm. Sex, drugs, rock and roll. Sesso, droga, rock and roll. Planning holidays. Programmare delle vacanze. Exciting plans for work. Dei programmi, dei progetti eccitanti riguardo al lavoro. What you do in your spare time, how you spend it. Cosa fare nel tempo libero, come lo passate. Mm. So all these, when we sit in meditation, begin come up as agitations in the mind. Quindi tutte queste cose, quando ci sediamo in meditazione, sorgono come agitazioni nella mente. Mm. And the quality of uncontrollability is the measure of our indulgence. Quindi la loro quanto sono incontrollabili, la loro qualità di incontrollabilità è la misura della nostra, del nostro indulgere in esse, di quanto noi li desideriamo in pratica. Mm. Because remember, these are what the Buddha called sankharas. Ricordi che questi sono ciò che Buddha chiamava sankhara. And sankharas are those mental states that we ourselves directly manufacture. Quindi sankhara sono quegli stati mentali che noi direttamente costruiamo. Mm. And when these come up in our meditation, we're just taken away by dreams and fantasies. Quando sorgono nella nostra meditazione, noi siamo trascinati via dai nostri sogni, le nostre fantasie. Mm. So, as you know, we note not the content of the actual dream, but the process that we're going through. Is it indulging? Quindi, come sapete, noi non non notiamo il contenuto del sogno effettivo, ma il processo che si sta verificando. Quindi cos'è? È un indulgere in qualcosa, un desiderare? Mm. We can of course be more specific. We can say, you know, planning, if it's something that we are, you know, planning to do in the future, which is caught our imagination. Quindi ovviamente possiamo anche essere più specifici, per esempio possiamo dire programmare, se ci ritroviamo a programmare qualcosa nel futuro e se è questo che ha catturato la nostra attenzione. Mm. So actually naming what it is that is drawing the mind away keeps us in contact with the essential problem. Quindi dare un nome a ciò che sta portando via la nostra mente ci permette di entrare in contatto con quello che è effettivamente il problema. Mm. And then, as you know, we come back into the body and try and contact the feeling element. E poi, come sapete, noi ritorniamo nel corpo e cerchiamo di entrare in contatto con l'elemento di sensazione. Mm. Because these conditionings have this power within them which we call desire. Perché questi condizionamenti hanno al loro interno questo potere che noi chiamiamo desiderio. Mm. This what we mean by this desire is a desire to express themselves. Quello che intendiamo quindi con desiderio è questo desiderio appunto di esprimersi. Mm. And by just staying at the level of feeling, they can't go up into the imagination. Quindi rimanendo in a questo livello delle sensazioni, loro non possono arrivare poi a prendere la forma di immaginazioni. So that's the key understanding, that when a desire moves into the mind as a flow of imaginations, it's actually developing itself. Quindi questa è la comprensione chiave, che quando un desiderio entra nella mente come un'immaginazione, effettivamente cosa succede è che si sta sviluppando. Mm. So you can see the effort has to be not simply in the meditation here on retreat, but in daily life, that as soon as we see the mind is dreaming, to note it and keep coming back to the present reality. Quindi vedete che lo sforzo che occorre fare non solo qui in meditazione ma anche nella vita quotidiana è che appena ci accorgiamo che la mente viene portata via da queste immaginazioni la dobbiamo riportare al momento presente. Mm. And why do we do that? I mean, why do we indulge in these fantasies? Ma perché lo facciamo? Perché ci facciamo prendere da queste fantasie? Because it creates within us this atmosphere which we experience as happiness, some form of happiness. Perché crea dentro di noi questa atmosfera che noi sperimentiamo come una forma di felicità. And this inner atmosphere we call our emotional heart life. E questa atmosfera noi la chiamiamo la nostra vita del cuore emotiva. And this is, you know, where part of our essential delusion manifests. È proprio a questo livello che parte della nostra illusione essenziale si manifesta. Mm. We think that emotional happiness is real happiness. Cioè noi riteniamo che la felicità emotiva sia la vera felicità. Mm. And what I'm referring to as real happiness is, you know, something stable, reliable, continuous, and so on and so forth. E quindi per vera felicità ciò che intendo è una cosa continua, affidabile. Continuous and reliable and continuous. Eh? Sì, oh, you said that, yeah. Continua, so affidabile, stabile, insomma, yeah, così via. So. Mm. And there's a scripture in where the Buddha begins with these basic physical pleasures, and he says some people think this is nibbana. E quindi c'è un passo, c'è una scrittura, un passo delle scritture cui il Buddha descrive proprio questi piaceri fisici, comincia con la descrizione di questi piaceri fisici e dice: alcune persone ritengono che questo sia il Nibbana. Now, these, just like today, were the materialists. E questi, dei tempi del Buddha, erano quelli che oggi si chiamerebbero materialisti. No, they were materialists in the Buddha's day. Erano i materialisti ai tempi del Buddha. Who dismissed any idea of an afterlife or anything like that and said this was the life that you had and you better make the best of it. Che quindi negavano qualsiasi tipo di vita dopo la morte, dicevano questa è l'unica vita che abbiamo e tanto vale fare, come dire, goderla al pieno. And that, you know, physical, emotional pleasures were happiness, and therefore that's what we went for, that's what we put our energies to achieve. E quindi le felicità fisiche o emotive erano quelle che ci portavano felicità, erano quelle le cose da perseguire. And because there was no future life, it also undermined the moral life. There was no consequence, there was no real consequence to your actions. E poiché non c'era una vita dopo la morte, allora questo in certo senso minava alla base anche l'idea della moralità. Siccome non c'era nessuna conseguenza delle proprie azioni, si poteva fare quello che si voleva. Because you can't tell, you can't see moral retribution obviously in this life. Perché non si può vedere la retribuzione morale in maniera molto ovvia in questa vita. Yeah. We know that murderers get away with murder and good people get shot. Noi sappiamo che gli assassini a volte riescono a farla franca rispetto al loro reato e le persone buone, diciamo, vengono uccise. Yes, Stalin died in bed and Gandhi was shot. Stalin è morto nel suo letto e Gandhi invece è stato assassinato. Yeah. So their situation was that if you went down one side of the Ganges doing all sorts of good works and up the other side killing and murdering and stealing, it didn't make any difference whatsoever. Quindi secondo loro punto di vista, se tu andavi giù da un lato del Gange e facevi tutte le cose, come dire, moralmente giuste, e invece dall'altra venivi su dal lato opposto del Gange uccidendo, rubando e tutto quanto, non faceva nessunissima differenza. The purpose was to seek happiness in this life. Lo scopo era di cercare la felicità in questa vita. So then the Buddha goes through various degrees of what people think is happiness, even to the very beautiful absorptions that we get through meditation. Allora il Buddha poi percorre tutti i vari tipi, i vari modi in cui le persone cercano la felicità, su fino a quegli stati di assorbimento che si ottengono attraverso la meditazione. And each time he says the same thing, they're unreliable. E ogni volta dice la stessa cosa, sono inaffidabili. And finally, of course, he gets to what he understands and what he's experienced as Nibbana. E poi alla fine arriva a quello che lui ha compreso e ha sperimentato, che è il Nibbana. And so the meditation is making us realize that everything where we seek happiness is simply not reliable. Quindi la meditazione ci fa capire che tutti gli ambiti in cui noi cerchiamo ciò che riteniamo sia la felicità sono inaffidabili. But we mustn't make the mistake that the Buddha is therefore saying that we mustn't enjoy the fruits of life. Ma non dobbiamo fare l'errore di ritenere che il Buddha ci stia dicendo che noi non dobbiamo godere dei frutti della vita. No, he's always talking about a wrong relationship with the things that we enjoy. Lui parla sempre di un rapporto errato con le cose che noi ci godiamo. So just by bearing with that feeling within the body, the energy that we have produced for that desire begins to die away. Quindi semplicemente restando con questa energia nel corpo che questo desiderio ha prodotto, beh, questo stesso rimanere con l'energia fa sì che il desiderio svanisca. Mm. So when you're in daily life, if you see that you become in some way addicted to something. Quindi nella vita quotidiana, quando vi accorgete di essere diventati in qualche modo dipendenti da qualcosa, Whenever you approach that object of addiction, just stay very still and just wait for that feeling to die away. Quando vi avvicinate a quell'oggetto che crea la vostra dipendenza, semplicemente fermatevi e aspettate che questo questa attrazione, insomma, svanisca. And this is the purpose of renunciation in the Buddhist teaching. E questo è proprio lo scopo della rinuncia negli insegnamenti buddhisti. Mm. It's to get in touch with our attachment with things. È un modo per entrare in contatto con il nostro attaccamento alle cose. Mm. So one exercise I've often suggested to meditators is to sit in front of the TV when it's your most favorite program. E quindi uno degli esercizi che io suggerisco ai meditanti è quello di sedersi davanti alla televisione all'ora in cui c'è il vostro programma preferito. Mm. And have your coffee and cake. Prendete una bella tazza di caffè, la torta. And don't turn it on. E non accendete la televisione. and just feel the pain. E sentite il dolore. And keep doing it with the same program until you can see the attachment's gone. E quindi continuate a farlo con lo stesso programma fino a quando non vedete che l'attaccamento è svanito. Then you can see it again, but you have to be careful not to create the same relationship. Poi lo potete di nuovo guardare, però dovete stare attenti a non creare lo stesso tipo di relazione. I once watched an Australian series. It was 3 programs. Una volta ho visto una serie di programmi australiani. Yeah. And it was about these 3 girls who had travelled over to Morocco, were unfortunately used unwittingly as drug carriers, and they got caught in Spain, and the whole story began to develop. Quindi parlava di queste 3 ragazze che erano nate in Marocco ed erano state utilizzate come trasportatrici di droghe a loro insaputa. Sono state poi catturate in Spagna e la storia poi si sviluppa da lì. Mm. And the second program left you in this suspense as to what would happen not only to them but to the people who'd abused them. La seconda parte del programma vi lasciava in uno stato di suspense, nel senso che non si sapeva cosa sarebbe successo né a queste ragazze né a chi le aveva utilizzate, a chi le aveva trattate male. I missed the third program and I'm still wondering what happened to them. Io mi sono perso il finale, quindi la terza parte, e sto ancora chiedendo cosa è successo a loro. And this is a story, it's not even real. Ma questa è una storia, non è neanche vera. So you can see how the mind becomes very attached to certain things. Quindi vedete come la mente diventa molto attaccata a certe cose. Now, the Buddha points out that we're not simply enjoying things, this is generally speaking, we're not simply enjoying things because it creates happiness for us. Quindi il Buddha ci dice che, parlando in senso lato, noi non stiamo godendo, we're not enjoying things because we think they give us happiness. We're not enjoying things only because they give us happiness. Quindi non è che ci stiamo godendo le cose solo perché riteniamo che ci portino felicità. Mm, but because we are trying to ignore or escape from suffering. Ma anche perché stiamo cercando di ignorare o di fuggire dalla sofferenza. Yeah. And this is where we come to the more negative states. E qui è dove arriviamo agli stati più negativi. So whenever something comes up in life like anxiety, guilt, depression, we tend to try and get out of it by putting our attention in something which makes us happy. Quindi ogni volta che sorge il no hai un sentimento, una sensazione negativa come l'ansia, il senso di colpa, la depressione. Noi cerchiamo di spostarci, di allontanarci andando verso qualcosa che sia più piacevole. And you can see that psychologically this is a pressure coming up into the mind. Psicologicamente vedrete che questa è come una pressione che entra nella mente. And this is also one of the deeper causes for addiction. Questa è una delle cause più profonde della dipendenza. So often when we give up a pleasure, we discover, you know, these feelings coming up as difficult for us. Quindi di solito quando rinunciamo a un piacere, noi scopriamo queste sensazioni difficili che sorgono dentro di noi. And I think that's what we experience as soon as we come to a meditation retreat. Ed è quello che noi sperimentiamo quando veniamo in un ritiro di meditazione. Because suddenly we change all our habits. Cambiamo tutte le nostre abitudini. Yeah, we eat at different times, we get up at different times, and suddenly we're sitting very still. Quindi mangiamo in orari diversi, ci svegliamo in un orario diverso e improvvisamente siamo seduti molto fermi. So it's a bit like when you lift the lid off a dustbin. È un po' come alzare il coperchio da un bidone della spazzatura. All the stuff keeps just keeps coming up. E quindi tutta la roba comincia a uscire. So again, we are to come off the thoughts that these might manufacture and stay in the body, stay with those very unpleasant feelings. Quindi anche qui dobbiamo, come dire, allontanarci dai pensieri che queste sensazioni stanno producendo e rimanere con il corpo. And in both of these positive and negative states, if we stay with them in the body, perhaps you can feel this energy wanting to go back into thought. Probabilmente quando sorgono queste sensazioni sia positive che negative, vi potrete accorgere di una sorta di energia che cerca di sfuggire, di andare verso il pensiero. You can feel a sort of an escape energy, wanting to go, wanting to move. Un'energia di fuga che vuole spostarsi, vuole uscire. So this is the desire, you see. Questo è il desiderio. And if you can stay there and really feel, allow that to express itself, as it dies out, the mind begins to quieten. E se riuscite a stare lì e permettere a questa energia di, come dire, di esprimersi, ma rimanendo appunto fermi, immobili, vedete che man mano che si esaurisce questa energia, la mente diventa molto quieta. And one of the products of this indulgence we mentioned was boredom. Quindi uno dei prodotti di questo indulgere di cui abbiamo già parlato è la noia. And I think boredom is a very strong modern disease. Io credo che la noia sia una malattia moderna molto forte. When I've been with mixed with groups mixed with people in Sri Lanka who live in the country. Quando sono stato con delle persone nello Sri Lanka che vivevano in campagna. And they don't have, you know, television. They might have a little radio. Non hanno la televisione, forse hanno una piccola radio. And the rhythm of life is according to the seasons. Il loro ritmo di vita è basato sulle stagioni. So sometimes in the very dry season there's very little work. And then, you know, when the wet season comes, there's a lot of planting of rice crops and things like that. Quindi nella stagione secca non c'è molto lavoro, in quella invece più delle piogge, diciamo, più umide, allora c'è del lavoro perché devono seminare il riso e cose così. And I remember being with this particular family, and they were just sitting just looking down across the valley. E mi ricordo che stavo con questa famiglia e loro erano semplicemente seduti e guardavano giù per la valle. And they weren't saying very much, the occasional word. E non stavano dicendo molto, ogni tanto una parola. And this was, you know, three, 4 hours. E passavano tre o quattro ore così. Can you imagine anybody in the city doing that? Riuscite a immaginare qualunque persona nella city, che questa zona di Londra della, del business, diciamo. Oh no, no, just any, any city, town, just any, yeah. No, allora, una città, nel senso generale. Vi potete immaginare delle persone in una città fare, avere questo comportamento? Yeah. And you, you know, you might see somebody just watching a fly going round the window. Just watching a fly going round the window. No, magari si può vedere una persona che semplicemente guarda una mosca che gira nella finestra. Mm. I remember there was a little, somebody told me that, you know, there are these, what do they call them? Swaps, where children from other countries stay in foreign countries, yeah. Ci sono questi scambi dove ci sono dei ragazzi da un paese che vanno a stare nelle famiglie di un altro paese. And this was a case of two young American teenagers, but it could have been any Western teenagers, frankly. Due adolescenti americane, ma poteva essere qualsiasi adolescente del, cioè, occidentale, di un paese occidentale. Mm. And when it came to the weekend, they asked their fellow Sri Lankan teenagers, you know, like, what are we going to do? Arrivato il weekend, cominciavano a chiedere ai loro compagni dello Sri Lanka, ma cosa facciamo? And they said, well, nothing. Loro hanno risposto, ma niente. We just hang around, you know. Hang around, come dire, ci, come si dice? Doing nothing, just, yeah, sì, nothing exciting. Non fare nulla. So the problem with boredom, remember, is that it makes us seek excitement. The opposite of boredom is excitement. Quindi il problema con la noia è che la noia fa sì che noi cerchiamo una forma di eccitazione. Mm. Il contrario della noia è proprio l'eccitazione. Mm. And it's the state of excitement that you know, our society wants us to be in all the time. Ed è proprio in questo stato di eccitamento che la nostra società ci vuole sempre. Mm, they call it entertainment, eh? Loro lo chiamano divertimenti. But it's always wanting you to be, you know, running, doing something, getting excited, getting involved, being entertained. Ma è quello che vuole, che tu sia sempre di corsa, sempre eccitato, sempre occupato in qualcosa, che tu ti stia divertendo in qualcosa. Mm. Sometimes when I catch children's programs, they're nothing like the ones I had when I was a child. A volte mi capita di guardare dei programmi per bambini che non hanno nulla a che vedere con quelli che guardavo io da bambino. They seem to be highly energetic, excited, you know, things to do. Molto energici, eccitati, sono sempre cose da fare. So when boredom comes up, especially in our meditation, remember this is manifesting our attitude of seeking this excitement. Quindi sappiate che quando sorge questa noia nella nostra meditazione, questo è un segno di questo atteggiamento, di questa spinta a cercare sempre qualcosa di eccitante. Yeah. And again, it's the same thing. You sit with it, you bear with it, you don't feed it. È sempre la stessa cosa. Uno si siede e lo osserva, ci sta insieme, ma l'importante è non nutrirlo. Mm. And it's the same with all these negative states: anger, hatred, loneliness, whatever. E vale per tutti questi stati negativi: la rabbia, l'odio, la solitudine. Mm. Now remember that when all these things die out, the energy is not lost. Ricordate che quando tutte queste cose poi muoiono, cioè si dissolvono, l'energia non è dispersa. Mm. They naturally move towards their opposite. Naturalmente si spostano verso il loro opposto. So the less boredom and desire for excitement in the system, the more we find contentment. Quindi meno c'è noia o questo desiderio di eccitazione nel nostro sistema, e più cresce il nostro appagamento con ciò che abbiamo. And I said, we said earlier about loneliness, how it moves towards a very positive state of being happy, being alone. E quindi abbiamo visto già come questo senso di profondo di solitudine, che abbiamo visto che in italiano non c'è tanto la differenza, comunque una solitudine negativa si può trasformare invece in questa desiderio di stare da soli. To be happy with oneself. Sì, essere felici con se stessi. And in the Buddha's teaching, this is mainly expressed in the second of the noble truth, right attitude. E questo il Buddha lo esprime nella seconda nobile verità, che è la retta, retta attitudine, un retto atteggiamento. Where selfishness moves towards generosity. Quindi l'egoismo si sposta verso la generosità. Hate towards love. L'odio verso l'amore. And cruelty towards compassion. E la crudeltà verso la compassione. And in a school like Zen, they will say this happens naturally, with wisdom, you see. In una scuola come quella dello Zen, loro dicono che questo avviene naturalmente. Cresce, si sviluppa con la saggezza. In fact, there was a Zen teacher in London, Myoho-ji, who has died now. She's died. Yes, I think she's died. C'era un insegnante Zen di Londra che è morta adesso. And she said that practicing metta was a complete waste of time. E lui diceva che praticare metta era una completa perdita di tempo. Because if you just kept the wisdom going, it would happen anyway. Perché se continuavi comunque a praticare la saggezza, si sarebbe sviluppata comunque. I don't think this was the Buddha's opinion. Ma io non credo che questa sia fosse l'opinione del Buddha. Because he actually gave us exercises to develop goodwill. Perché lui aveva dato degli esercizi per sviluppare la benevolenza. So that's a good thing to take into daily life, to recognize that whenever we're indulging in something, we're probably running away from something. E questa è una buona cosa da portare nella nostra vita quotidiana, cioè accorgerci che ogni volta che noi stiamo indulgendo a qualcosa, noi stiamo in realtà scappando da qualcos'altro. And we won't discover that until we stop the indulgence. E questo non lo scopriremo fino a quando noi interrompiamo questo indulgere. And you know, the practice it's not easy, is it? La pratica non è così facile. I mean, it's you know, you have to go through this purgatory before you can get towards heaven. Cioè, bisogna attraversare questo purgatorio prima di arrivare al paradiso. But I think that if we keep doing it and we slowly see the benefits in our lives, then that encourages us really to keep doing this sort of work. Ma se continuiamo a farlo, vediamo i benefici nella nostra vita, questo ci incoraggia a continuare a fare questo tipo di lavoro. Now, included in the exciting part of these hindrances is just this, what the Buddha called restlessness. Quindi comprese in questi stati di eccitazione, all'interno dei cinque ostacoli c'è quello che il Buddha chiamava irrequietezza. And when we're in meditation with a very restless body, you may find that if you relax around the restlessness, this helps. E quando ci troviamo a meditare con un corpo molto irrequieto, possiamo scoprire che se noi ci rilassiamo intorno a questa irrequietezza può essere d'aiuto. And in fact, if it's really bad, you can actually do this little bit of a sort of scan of the body, going from the head down and just seeing where is this restlessness. Se invece continua e perdura, allora si può provare a fare questo esercizio di percorrere il corpo con l'attenzione e vedere dove, in quale parte del corpo si produce questa irrequietezza. Yeah. And just bringing the attention down the body like this, you know, just doing that generally speaking, just helps to, you know, draw the energy down. Quindi semplicemente scorrere il corpo appunto con l'attenzione ha anche la funzione di far scendere l'energia. When it comes to a very restless mind, you just need patience. Quando invece si tratta di una mente irrequieta, allora qui avete solo bisogno di pazienza. As soon as the mind goes, off you go. Even if, remember, even if the whole meditation hour, the whole day, the whole retreat, the mind is off, and all you're doing is coming back to the breath. That's good meditation. Quindi anche se per un'intera seduta o un'intera giornata, anche per tutto il ritiro, la mente continua ad andare via, ma voi riuscite a riportarla nel corpo, allora quella è già ritenersi una buona meditazione. Mm. If at any one time you give up and just go with the thought, this is bad meditation. Se invece in un qualunque momento voi rinunciate, semplicemente ve ne andate con il pensiero, allora questa non è una buona meditazione. Yeah. And you should feel terrible and guilty. Dovreste sentirvi terribili e in colpa. And you should encourage yourself to get back to the practice. Dovreste incoraggiare voi stessi a ritornare alla pratica. Included in that section are all the feelings around guilt and shame. Compresa in questa sezione ci sono tutte le sensazioni di i sensi di colpa e le sensazioni di vergogna. Because it makes us very restless. Perché queste sono cose che ci rendono molto agitati. In the Pali, the words give you the feeling of the restlessness. Le parole in Pali vi danno questa sensazione dell'irrequietezza. Udaccio cucuccia. Udaccio cucuccia. Udaccio cucuccia. And the final one is doubt. E l'ultimo di questi ostacoli è il dubbio. Doubt is called skeptical doubt. Qui è chiamato il dubbio scettico. And skeptical doubt is quite destructive in life generally, but definitely in the spiritual life. Quindi il dubbio scettico è molto distruttivo nella vita in generale, ma in particolar modo nella vita spirituale. Because skeptical doubt stops you from committing yourself. Perché il dubbio scettico vi impedisce di impegnarvi, prendervi l'impegno di praticare. So, for instance, somebody might think, shall I go to this meditation retreat or not? And then they have all sorts of reasons why not, why they should, why they shouldn't. Allora uno può chiedersi, ma ci dovrei andare a questo ritiro di meditazione? E poi ci sono tutti i pensieri, ma perché dovrei, perché non dovrei, e via di sé. And eventually they say, well, you know, I've got good reasons for not going, so they never do it. E quindi poi pensano, beh sì, ho dei buoni motivi per non andare, e poi non lo fanno mai. You know, in an individual, even in our daily lives, we might find ourselves caught up in argumentation, unable to make a decision. E anche nella nostra vita quotidiana possiamo trovarci intrappolati in queste discussioni interne e incapaci di prendere una decisione. Now it might be that we haven't got enough information. There might be a good reason for not making a decision. Può darsi anche che non abbiamo sufficienti informazioni, quindi ci siano dei buoni motivi per cui non riusciamo a prendere una decisione. But if it's a pattern in our lives of not committing, then you know, by not indulging in the doubt, we might find underneath some anxiety, some fear. Ma se questo è una specie di schema ripetuto nella nostra vita, questa tendenza a non prendersi mai un impegno, allora il fatto di riconoscere questo dubbio sottostante, fear, anxiety. Sì, riconoscendo questo dubbio si può vedere che sotto c'è in realtà una paura, un'ansia. Maybe a fear of failure, a fear of criticism, all sorts of la paura di un fallimento, la paura di una critica, tutti i tipi di paure. Yeah. And generally speaking, the way to overcome that is just to throw care to the wind and do it. Throw care to the wind. Yeah. Just, you know. Quindi di solito il modo migliore per affrontare questa situazione è semplicemente fare quello che si deve fare, insomma, yeah. Non guardare in faccia a nessuno e buttarsi. Yes, yes. Just go for it. Darci dentro. And get used, you know, sometimes get used to the idea of failure. Semplicemente anche abituarsi all'idea del fallimento. Now failure is something which comes when we only think of success. Quindi il fallimento è una cosa che viene quando pensiamo unicamente al successo. Success and failure are very much something to do with this idea of me being successful, me being a failure. Quindi questa idea del successo e del fallimento hanno molto a che vedere con questa idea dell'io, no? Io che ho successo, io che fallisco. But if you look at life more as trial and error, it allows us to make mistakes. Ma se vedete la vita più come guidata da tentativi ed errori, it allows us to make mistakes. Allora è come se noi permettessimo noi stessi di fare degli errori. You know? And it's just like at work or you know in certain situations, you know you have to be happy to lose a battle. E così come al lavoro, no? O in altre situazioni, uno deve essere felice per poter perdere una battaglia. In a relationship, one has to be happy with losing that argument. You know, in una relazione, uno deve essere felice di perdere in quella discussione, per dire, no? Yeah, you see, you can't always win, eh? Non sempre si può vincere. So that's this whole area of doubt, which we'll go into a little bit more when we talk about faith. E quindi questo è tutto quell'ambito del dubbio, e ne parleremo un po' di più quando affronteremo il discorso sulla fede. So the last big hindrance, of course, is dullness and lethargy. Quindi l'ultimo grande ostacolo è la pigrizia e il torpore. My teacher used to call them our two very good friends. Il mio insegnante li chiamava i nostri due ottimi amici. Yes, what you really need now is just a little sleep and you'll feel better. Quello che ti serve adesso è solo un po' di sonno e poi starai meglio. So, when these feelings come up now, so this is now the fourth day. So from now on, really, any feelings of tiredness or dullness during the day, really put the error or put the benefit of doubt in the dullness and lethargy. Don't think it's tiredness. Quindi adesso siamo già al quarto giorno di ritiro, quindi se sorge questo torpore, questa pigrizia, allora senza dubbio, senza ombra di dubbio, sono da considerare degli ostacoli, cioè non è vera stanchezza. And work with them gently, you see. Cercate di lavorarci assieme in maniera dolce, delicata. Yeah, you're not trying to annihilate tiredness. Get it out of the way by running. Non è che state cercando di annichilire, di distruggere la stanchezza correndo. Again, you have to see it as an energy. Dovete vederla come un'energia. So all these energies that we've been talking about are like whirlwinds. Tutte queste energie di cui abbiamo parlato sono come dei mulinelli. But this energy, dullness and lethargy, is more like a whirlpool. Aspetta, mulinello is a whirlpool. The other was Energy, wind. Allora scusate, l'altro non era un mulinello, era una, tipo un tornado. A whirlwind, a tornado. Invece la letargia, la sonnolenza, la pigrizia è più come un mulinello, nel senso che trascina verso il basso. Yes, posso dormirci sopra? You can sleep on it. So this dullness is actually an energy, and you have to be awake and let it expend that energy in awakeness. Quindi in realtà quello che è questo intorpidimento è un'energia, quindi quello che bisogna fare è utilizzare questa energia per svegliarsi. Lethargy. Yes. Yes, it's an energy, it's a form of energy. This is what I'm saying, yeah. Quindi la letargia è una forma di energia. Yeah, it's dragging us down, it's a black hole, you see. You know, there are exploding stars and black holes. È come un buco nero, ci sono le stelle che esplodono e poi i buchi neri. Yeah. For me, all this is mirrored in nature, you know, this idea of how the way energy works. Quindi tutto questo per me è rispecchiato nella natura, il modo in cui funziona l'energia. And so, like I say, when you feel dull, you make every effort just to stay awake and be a companion to it. Quindi quando vi sentite così intorpiditi, quello che dovete fare è fare uno sforzo per restare svegli e prenderlo come un vostro compagno. Yeah. So. If it's very bad, you take you know, the big fat dog for a walk, up and down. Quando è molto pesante, allora andate, portate a spasso il cane grasso, okay. Su e giù. Up and down, come on, up we go, up, come on. See? <Just keep going. laughs> Portate a spasso questo cane, dai, andiamo, lo tirate, yeah. Su e giù. See? And then slowly you might see that the energy can suddenly turn and suddenly you're full of this restlessness. E quindi potete vedere anche che a un certo punto questa energia come se si trasformasse e siete pieni di questa irrequietezza. And when this happens to a meditator, then they realize actually it's just energy. E quando questo succede, allora uno si rende conto che effettivamente è solo un'energia. And sometimes of course it dies out and we get this lovely, it's like a beautiful energy, you know, very very clean, constant energy. A volte ovviamente diventa un'energia molto pulita, molto costante. And this also happens with restlessness. It dies down and suddenly there's this lovely energy. Yeah? E lo stesso succede con l'irrequietezza, che improvvisamente smette e c'è questa bellissima energia stabile. And the same with the mind. E questo vale anche per la mente. Yeah. Sometimes your mind, the head feels like just a big bowl of porridge. Yeah? La mente sembra un grande una scodella di porridge, ah. So, una pappa di avena. Polenta. And so just keep the way to keep awake in the head is just to keep the attention moving round and round the head. Quindi il modo di tenere sveglia la mente è tenere questa attenzione che continua a girare intorno alla testa. It's like a big cloud and you're just seeing where the parameters are. È come una grande nube e voi state cercando di capire dov'è il confine. And again, to the meditator's surprise, you can wake up like a bright light in the midst of that smog. Può sorprendervi, ma cioè, può capitare a vostra sorpresa di svegliarvi come con una luce molto brillante all'interno di questa enorme nube. And what has kept us in the dull state is that attraction to sleep. Quello che ci ha tenuto in questa zona grigia, diciamo, in questo stato di torpore, è stata questa attrazione verso il sonno. And the more we look at it, the more we feel it, the more the energy is drawn into the attention. E più noi lo sentiamo, e più l'energia è attirata dentro l'attenzione. And that's when we get this waking up within that heaviness. Ed è lì che succede che ci svegliamo all'interno di questa pesantezza. So for most of us we've just revised all this business of how to deal with these negative states. Quindi per la maggior parte di noi abbiamo in questo modo fatto un ripasso di come noi ci relazioniamo, come affrontiamo questi stati negativi. And if any questions or any problems come up around this sort of area, then obviously bring them up in interview or leave me a note. Quindi se sorgono dei problemi o delle domande rispetto a questo particolare aspetto, allora potete chiedermelo nei colloqui oppure scrivete una domanda. And if you put the thing here, then I'll answer it quickly. E se mettete qui le vostre domande, io le posso rispondere. Posso rispondere. Sì. Cioè, presto. I trust my words have been of some assistance. Io confido nel fatto che le mie parole siano state di qualche assistenza, di qualche aiuto. That you will work skillfully with all the hindrances. Che voi possiate lavorare in modo abile con tutti gli ostacoli. Purge the heart of all defilements. Purgare, si può dire, il cuore di tutti gli inquinanti. And attain that purity which leads us to Nirvana sooner or later. E ottenere quella purezza che può condurci a Nirvana, prima o poi. Very good. So a little again, just recognize where you are, and either do this quiet abiding in the present moment or some gentle walking meditation. Quindi semplicemente rendetevi conto di dove siete, di cosa state facendo, potete praticare questo tranquillo dimorare oppure fare una meditazione camminata.